Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera Federico Pedrocchi ci porta a Trento, dove ha incontrato Sergio Betotti, dirigente generale del Dipartimento Innovazione e Ricerca ICT della provincia autonoma di Trento. Trento, città dove sta sorgendo uno dei quartieri più avanzati d'Italia, soprattutto per quanto concerne la dotazione di connessioni alla rete e di strumenti domotici. Sentiamo. Con Sergio Betotti siamo qui a guardare una casa che è del... È del 1500, è una residenza estiva, primaverile, dell'allora vescovo di Trento che dal castello scendeva poi qui, in questa zona un po' più fresca, vicino al fiume. Da questa casa partiva un viale molto lungo che aveva degli alberi. Sì, e qui partiva un viale alberato, che poi è quello che ha dato il nome a questa zona, no? Le albere, che in dialetto trentino sta a indicare proprio questi alberi, sono delle cose simili ai tigli. Una famiglia dei tigli. Di quella famiglia lì, e caratterizzavano questo complesso del Cinquecento perché di fatto collegava questa residenza, diciamola così, estiva, primaverile, no? Un po' più fresca con la città. Abbiamo incominciato 500 anni fa per poi girarci, adesso ci giriamo, siamo al centro di questo nuovissimo e ancora in costruzione museo progettato da Renzo Piano, sarà il nuovo museo di storia naturale che dovrebbe essere pronto quando? Questo nuovo museo di scienze naturali verrà aperto nel prossimo luglio, ci si sta lavorando da qualche anno, è veramente una cosa che sta caratterizzando quest'area. Il museo è immediatamente a ridosso di un'area residenziale che si chiama appunto Le Albere e che ha un concentrato di tecnologie tale da essere probabilmente del costruito nuovo il quartiere più avanzato. Questa è stata una grande scommessa che l'amministrazione comunale, amministrazioni pubbliche trentine hanno fatto. Qui stiamo materialmente coi piedi all'interno di questo museo che insieme a quest'area urbanizzata, riurbanizzata, faceva parte di un complesso di 12 ettari che era di una ditta che produceva filato d'acciaio per fare pneumatici. Quindi è proprio l'esempio di una riconversione di un'area industriale ad un'area urbana che è stata fortemente voluta dalla pubblica amministrazione per vari motivi. Il primo perché sono un'area importante vicina alla città, quindi materialmente si toglieva l'industria dalla città e si recuperava questo ambiente ridandolo ai cittadini. Dall'altra parte l'aver creato un ambiente però a misura d'uomo, perché come abbiamo visto, noi che possiamo vedere, è molto verde, anche nella parte entrante è stato recuperato anche con degli spazi ampi. Sono anche case di dimensioni moderate, quindi non sono i famosi casermoni, e sono però per esempio altamente cablate. Sì, e questa è l'altra caratteristica di quest'area, che questo è nato con una spesa aggiuntiva decisamente contenuta, perché si è pensata fin dall'inizio così questa cosa, interamente cablata in fibra ottica, quindi ogni appartamento permette a chi entra di poter avere i servizi basic di chi vuole una DSL base, non è costretto ad avere chissà che cosa, ma invece può anche direttamente in appartamento già oggi poter avere servizi fino a 100 mega, quindi l'obiettivo UE 2020 qua già c'è. E poi è già attrezzato completamente per attività di tipo domotico, per esempio per tutte quelle attività di assistenza terapeutica. Sì. Qui ci sono, poi si potranno vedere, chi oggi è anche ospite di questo incontro che è stato promosso, vedere materialmente cosa vuol dire poter avere e usufruire anche di un appartamento domotico. C'è uno spazio in cui ci sono delle demo in cui materialmente si può provare a vedere come potersi recuperare da soli la pressione arteriosa piuttosto che il battito cardiaco. Magari questo può essere molto utile per quando poi dimessi dall'ospedale c'è bisogno di avere dei controlli, quindi non serve rispostarsi per andare all'ospedale del dottore, ma tranquillamente in casa tua trasmetti e dialoghi col dottore. Ma poi ci sono anche altri esempi di come la casa domotica può far sì che magari un figlio o altri, anche studenti universitari, che per qualche motivo non possono frequentare delle lezioni, possono interagire direttamente con l'aula, perché magari insomma, può succedere che qualche malattia ti tenga lontano dalla classe. Magari anche a lungo. Certo. Sì, magari a lungo. C'è una connessione diretta tra questi appartamenti e l'università, per esempio. Più che diretta, c'è una connessione a banda ultralarga e avendo anche l'università già la connessione a bando altalare, esatto, che permette di attivare questo. Mi pare che un ultimo particolare importante da sottolineare è che voi avete fatto i conti e avete scoperto che, insomma, progettando così bene dall'inizio, i costi riescono ad essere contenuti, perché poi invece quando bisogna portare dopo le tecnologie le cose cambiano. Sì, io qua mi sono trovato in altre occasioni, quando dovevo spiegarlo anche a dei colleghi, poi anche in questo caso ai politici magari, che poi dovevano decidere, la grossa differenza che c'è stata a livello di spesa anche recentemente nel portare il metano nelle case, no? Portare il metano nelle case quando la casa c'è vuol dire fare un qualche intervento che costa molto ed anche urbanisticamente brutto, poi vedi i tubi all'esterno. Il pensarlo laddove almeno costruiamo le cose nuove fin dall'inizio vuol dire che laddove metti un tubo ne metti un secondo, ma costa veramente pochi euro in più. Sergio Bertotti, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Insomma, mi sembra evidente come questa intervista faccia emergere molto bene, e anche per l'ennesima volta, la necessità di investire sulla progettazione, di progettare bene sin dall'inizio, di includere tutte quelle che sono le caratteristiche più innovative già nei bandi di gara, per quanto concerne diciamo così i vincoli che un'amministrazione pubblica può mettere, per esempio, sulla realizzazione di un nuovo quartiere. Noi ci fermiamo qui, ricordo a tutti che potete scriverci a smartcity@radio24.it, mi potete contattare anche su Facebook, mi trovate col mio nome, Maurizio Melis. A voi tutti buona serata.